E di colai andai in un altro luogo più tremendo di questo e vidi una cosa tremenda, un grosso fuoco colà ardente e fiammeggiante e, in esso, una spaccatura là, cui fine era fino al fondo, pieno grandi colonne di fuoco che vi si facevano discendere ed io non potetti osservarne né le misure né la grandezza e fui incapace di vederne l'origine. Allora dissi, come è spaventoso questo luogo e pauroso a vedersi. Allora Uriele, uno degli angeli santi che stava con me, mi parlò e mi disse, Enoch, che cos'è questo tuo temere in tal modo e, questo, tuo stupore per questo luogo tremendo e innanzi a questa afflizione? E mi disse, questo luogo è la prigione degli angeli e qui, essi, saranno tenuti in eterno. Enoch 11. Gli uomini mi sollevarono di là e mi alzarono nel quarto cielo e là mi mostrarono tutti i movimenti e gli spostamenti e tutti i raggi della luce del sole e della luna. Misurai il loro moto e confrontai la loro luce. E vidi, il sole ha una luce 7 volte maggiore della luna. La loro orbita e il carro sul quale viaggia ciascuno di essi, sono, come vento che va non hanno riposo, giorno e notte vanno e ritornano. 4 grandi stelle pendono a destra del carro del sole, 4 a sinistra, e vanno col sole eternamente. Angeli vanno davanti al carro del sole. Enoch 22. E di colà andai in un altro luogo e mi mostrò ad occidente un monte grande ed alto e, vi erano, pietre dure 4 belle località e, nell'interno, era profondo, vasto. Liscio assai al punto da essere sdrucciolevole e, a guardarlo era, profondo e tenebra. Allora Raffaele, uno degli angeli che era con me, mi parlò e mi disse, queste belle località, ci sono, affinché, in esse, si radunino gli spiriti, le anime dei morti. Sono state costruite qui, per loro, per raccogliere tutte le anime dei figli degli uomini. E questi luoghi dove le si faranno stare, lì, si son fatti per loro fino al giorno del loro giudizio e fin quando, durerà, il loro tempo. E il tempo sarà grande, fin quando vi sarà, contro di esse, il grande giudizio. Ed io vidi gli spiriti dei figli degli uomini morti e la loro voce giungeva fino al cielo e piangeva. Allora interrogai Raffaele, l'angelo che stava con me e gli dissi, di chi è questo spirito la cui voce così giunge e piange? E mi rispose e mi disse, questo spirito è quello uscito da Abele che fu ucciso dal proprio fratello Caino e piangerà fin quando la sua stirpe sarà dispersa dalla faccia della terra e la sua discendenza è più corrotta di tutte le stirpi degli uomini. E perciò, allora, lo interrogai su di lui e sulla condanna di tutti e dissi, perché sono stati separati? L'uno dall'altro? E mi rispose e mi disse, questi 3 monti, sono stati fatti per dividere gli spiriti dei morti. E in egual modo sono state separate le anime dei giusti. Questa è una sorgente d'acqua di luce. Nella stessa maniera è stato creato, un luogo, per i peccatori allorché muoiono e vengono sepolti nella terra e, durante la loro vita. Non c'è stato il giudizio contro di loro. E qui si tengono separate le loro anime, in questo grande tormento, fino al gran giorno del giudizio, della punizione e del tormento, fissato, per quelli che maledicono nell'eternità, vi staranno fino al giorno, della punizione delle loro anime e, qui, egli li legherà in eterno. E se questo, monte, fin da prima del mondo, ed in tal modo, è stato separato dagli altri per le anime di coloro che, allorché muoiono in epoca di peccatori, accusano e dimostrano a causa della perdita della loro anima. È stato così creato per le anime di coloro che non sono stati giusti, ma peccatori, che sono pieni di peccato e, con i peccatori, sono come loro, ma la loro anima non sarà uccisa nel giorno del giudizio ed essi non risorgeranno da qui. Allora io benedissi il Signore di gloria e dissi, benedetto è il mio Signore, Signore di gloria e di giustizia, che tutto domina in eterno. Enoch 23. E di là andai in un altro luogo, verso occidente, fino ai confini della terra. E vide un fuoco ardente che correva senza né fermarsi né rallentare, notte e giorno, proprio così. E chiesi, che è questo, che non ha riposo? Allora Raguel, uno degli angeli santi che stava con me, mi rispose, questo fuoco ardente, di cui tu vedi la corsa verso occidente, è tutte le luci del cielo. Enoch 24. Di là andai in un altro luogo della terra e mi mostrò un monte di fuoco fiammeggiante notte e giorno. Andai verso di esso e vidi sette montagne preziose, tutte ognuna diversa dall'altra, e pietre preziose e belle. Tutto era prezioso. Il loro aspetto era magnifico e bello. Tre verso oriente, salde, l'una sull'altra e tre verso nord, salde, l'una sull'altra. Vidi, burroni profondi e tortuosi e l'uno non si avvicinava all'altro. E la settima montagna era al centro, e tutte erano simili in altezza, ed era, come la base di un trono e la circondavano alberi profumati. E in mezzo a loro vi era un albero. Sicuramente, quando olezzava, non vi era alcuno, né fra essi né fra gli altri, che, come lui, olezzasse di ogni profumo. Le sue foglie, i suoi fiori e il suo legno non si seccavano mai e i suoi frutti erano belli come datteri. E allora dissi, ecco, che è, questo bell'albero, bello a vedersi, belle le sue foglie e anche i suoi frutti assai graziosi a vedersi. Ed allora Michele, uno degli angeli santi e onorati, che era con me e che era al di sopra di loro. Enoch 25. Mi disse, Enoch, che cosa mi chiedi a proposito del profumo di quest'albero, e che cosa desideri sapere? Allora io, Enoch, gli risposi, voglio sapere di tutto, e principalmente, di quest'albero. Ed egli mi rispose, questo monte che tu vedi, alto, la cui cima è come trono del Signore, è il trono su cui siederà il grande, santo, Signore di gloria, Re eterno, quando scenderà a visitare con bontà la terra. E quest'albero dal bel profumo, nessun essere di carne ha il potere di toccarlo fino al grande giudizio. Quando egli vendicherà tutti e tutto sarà finito per sempre, quest'albero sarà dato ai giusti e agli umili. Dai suoi frutti sarà data agli eletti la vita. Sarà piantato verso settentrione, in un luogo santo, verso la casa del Signore, Re Eterno. Allora gioiranno e saranno lieti nel santuario, e ognuno farà penetrare il profumo nelle proprie ossa e vivranno molta vita sulla terra come vissero i tuoi padri e, al tempo loro, non li toccherà malanno, afflizione o flagello. Allora benedissi il Signore di gloria, Re Eterno, poiché così aveva preparato cose per i giusti e così aveva creato e detto che avrebbe dato a loro. Enoch 26. E di là andai al centro della terra e vidi un luogo benedetto e fertile con rame all'interno, che continuavano a germogliare dall'albero che era stato tagliato.